in primo piano. Lunedì 16 maggio, le aperture dei quotidiani sono praticamente tutte dedicate alla vicenda giudiziaria, avete sentito anche nel GR, clamoroso l'arresto del direttore del Fondo Monetario Internazionale a New York, Dominique Strauss-Kahn, accusato di stupro. Tutte dedicate a questo, anche perché, come sapete, insomma, la politica è giornata di silenzio elettorale, si vota fino alle 15 e dunque c'è poca possibilità di dare spazio a questo tema. Allora vediamo i titoli. Il Corriere della Sera: Strauss-Kahn accusato di stupro. Per Repubblica: stupro, Strauss-Kahn nella bufera. La Stampa: Strauss-Kahn, caso internazionale. Per Il Messaggero: stupro, bufera su Strauss-Kahn. E vabbè, insomma, avete capito che i titoli sono questi. L'apertura del Sole 24 Ore, edizione del lunedì: fisco, riscossione sotto accusa, ipoteche, pignoramenti, ganasce ai contribuenti, poche armi di difesa. Vabbè, vedremo qualche altra apertura di prima pagina nel corso della rassegna stampa. Intanto, da cosa voglio partire come segnalazioni? Un paio di segnalazioni. La prima è su Repubblica, riguarda un po' tutti noi, milioni di italiani che sono genitori, no? Presi sempre col dilemma di come educare i propri figli. Ebbene, Repubblica oggi si concentra sullo studio di un nuovo guru americano, quelli che pensano di avere sempre la soluzione. Il professor Brian Kaplan: permissiva, rilassata, libertaria, ecco la rivincita della mamma, Agnello. È il nuovo studio che viene dall'America e che vuole contrastare lo studio di un anno fa, ricordate? Fece scalpore, è diventato anche un libro di successo e di grandi polemiche, quello di una docente di diritto cinese americana, Amy Chua, quella che teorizzò la mamma tigre, cioè bisogna crescere i propri figli con privazioni, con estenuanti lezioni di musica, come se fossero dei soldatini, privandoli di feste, di privilegi, di gioie, non so, mangiare i popcorn, siamo matti, insomma, bisogna essere una mamma tigre. Ora arriva la nuova teoria, quella della mamma agnello. Il professor Kaplan dice: il modello tigre è dannoso. I figli non vanno vessati, vanno lasciati anche davanti alla TV, vanno coccolati, vanno... Insomma, teoria e controteoria. Io dico sempre: fate del vostro meglio. Permissiva, rilassata, libertaria, la rivincita della mamma agnello, questa è la nuova teoria che arriva dagli Stati Uniti per quel che riguarda l'educazione dei figli. La seconda notizia la trovo sul Messaggero e riguarda i nostri amati principi, principe William e la moglie Kate. Attenzione, arrivano i primi particolari, intanto del gran rifiuto di Kate. Che cosa ha rifiutato Kate? Racconta il Messaggero: ha rifiutato la dama di compagnia, colei che dovrebbe seguirla per tutte le occasioni importanti, ma Kate Middleton ha detto: io la dama di compagnia non la voglio, non voglio neanche quella che mi trucca, mi trucco da sola, non voglio neanche quella che mi sceglie i vestiti, la stilista, scelgo tutto da sola. Al contrario del principe Carlo, che ci fa sapere il Messaggero, ha un valletto, mi viene da ridere, con un preciso compito, quello di spremergli il dentifricio sullo spazzolino. E questo è il compito di un valletto del principe Carlo. Ce n'è anche uno che è un giardiniere assunto solo per parlare alle piante perché crescano più rigogliose. Ora, state dalla parte di Kate o dalla parte del principe William? Si potrebbe chiedervi così. Sta di fatto che Kate invece ha detto: voglio rimanere il più possibile una persona normale, pur essendo principessa, avendo sposato il principe William, che manco si spreme il dentifricio sullo spazzolino. In primo piano. E allora, alle 7:35 minuti, vedevo in TV scorrere i giornali internazionali, non si parla d'altro, anche sui giornali, soprattutto quelli americani. L'arresto a New York del direttore del Fondo Monetario Internazionale, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in Italia nella notte tra sabato e domenica. E l'accusa è gravissima: stupro, aggressione sessuale nella suite di Manhattan. Dominique Strauss-Kahn è stato arrestato, aveva preso, pare in fretta e furia, era salito a bordo di un aereo dell'Air France per tornare in Francia, lui francese, lui che probabilmente era il candidato per i socialisti alla corsa all'Eliseo nella prossima campagna elettorale, e insomma, pare che abbia compiuto questo atto incredibile, almeno da quanto racconta una cameriera dell'hotel di New York, il Sofitel, dove alloggiava in una suite lussuosissima da $3,000 a notte. Il racconto di questa cameriera è praticamente lo inchioda. Sono entrata all'una di notte per fare le pulizie perché mi hanno detto che era la suite vuota. Appena sono entrata è uscito completamente nudo, ha cercato di trascinarmi nella stanza da letto abusando di me. Sono riuscita a divincolarmi. Mi ha riacciuffata, mi ha trascinata di peso nel bagno. Sono stata costretta ad avere un rapporto di sesso orale, un dettaglio poi non confermato, e poi è riuscita a fuggire. Beh, raccontata così è proprio il racconto di uno stupro vero e proprio. Ora, c'è da dire che su tutti i giornali, io non lo sapevo, ignoranza mia, ci sono dei ritratti di Dominique Strauss-Kahn che raccontano di una persona, ma questo ovunque, da Corriere Repubblica, Stampa, raccontano di una persona letteralmente ossessionata dal sesso e di una persona che già in passato aveva avuto episodi del genere. Basta leggere il Corriere a pagina 2-3, da Tristan a Carmen, la cronaca di un'ossessione. Oppure se volete leggere anche il reportage, il racconto del personaggio fatto da Bernardo Valli su Repubblica. Intelligenza, prestigio, potere, un uomo dal grande destino bruciato dal demone del sesso. Per esempio il Corriere con Stefano Montefiori racconta di come già Tristan Bannon, una giornalista, il 5 febbraio del 2007 raccontò di avere subito da Strauss-Kahn un tentato stupro vero e proprio. Mi ha dato appuntamento per un'intervista in un appartamento che si è rivelato essere vuoto, se non per un videoregistratore, una televisione e un letto. Mi ha subito iniziato a prendere il braccio, è finita che l'ho respinto, siamo finiti a lottare a terra, gli ho dato dei calci, ma continuava, mi ha slacciato il reggiseno, ha cercato di togliermi i jeans. Beh, ci sono anche altri personaggi che dicono, ma si sapeva, per esempio Thierry Ardisson, che è l'animatore più celebre della TV francese, dice, ma è ossessionato dal sesso, questo lo si sa da anni. Addirittura c'è un libro che è uscito sotto anonimato, firmato Cassandre, e intitolato De Esque, cioè Dominique Strauss-Kahn, come lo chiamano in Francia, I segreti di un presidenziabile. E in questo libro viene raccontato di relazioni extraconiugali, una ne ha avuta anche all'interno del Fondo Monetario Internazionale con una collega, Piroshka Nagy. Si narra di Strauss-Kahn come un celebre frequentatore di club per scambisti a Parigi. Ci sarebbero anche delle foto che lo ritraggono mentre esce da club per scambisti. Insomma, tutto questo sono i ritratti di un personaggio di cui, da questo punto di vista, si sapeva molto dell'intelligenza, del prestigio, del potere, delle sue doti da economista, della sua volontà di correre da socialista alle presidenziali prossime nel 2012, ma evidentemente in Francia soprattutto si sapeva anche di questa sua tendenza, insomma di questo suo rapporto certo non molto sano con il sesso. Repubblica intervista l'amico economista del Partito Socialista Jacques Attali, che dice ormai in politica è fuori gioco. Certo, ora si prospetta anche la possibilità che tutto sia stato una sorta di complottone, no? Proprio giocando su queste sulla sua insomma nota e notoria incapacità di resistere dal punto di vista dell'attrazione sessuale per le donne, qualcuno ha anche ipotizzato un complottone per metterlo fuori gioco dal punto di vista politico. E Jacques Attali dice, beh, è difficile immaginare che l'impiegata di un albergo rispettabile di New York come il Sofitel, dove sono andato spesso anch'io, sia una spia nemica che vuole impedire a Strauss-Kahn di presentarsi alle presidenziali, ma non si può escludere nulla. C'è anche una battuta che la stampa dedica, una battuta che sarebbe stata detta da Sarkozy, il presidente americano, proprio a Dominique Strauss-Kahn, in uno di quei ritratti che fanno di Dominique Strauss-Kahn un uomo malato di sesso. Pare che Sarkozy gli abbia detto, fai attenzione, in America non scherzare con questo genere di cose, evita di prendere l'ascensore da solo con le stegiste, perché la Francia non può permettersi uno scandalo. Quello che la stampa dice, le ultime parole famose di Sarkozy, Sta di fatto che, insomma, la sua immagine di uomo sempre abbronzato, si è fatto anche un'operazione per togliersi le borse agli occhi che ha fatto molto discutere in Francia, è una persona che notoriamente non fa mistero di essere un tombeur de femme. Sta di fatto che questa volta pare l'abbia combinata davvero grossa, nonostante la moglie gli creda totalmente dicendo "non ci credo, è una trappola". Sta di fatto che rischia fino a 20 anni di carcere e sta di fatto che ci sono tutti i riflessi anche di quello che è questo scandalo internazionale, quello che può voler dire per quel che riguarda il Fondo Monetario Internazionale. A pagina 5 del Corriere della Sera lo scandalo scuote anche il piano Salva Grecia, perché proprio ieri Angela Merkel in Germania doveva incontrare Don Ministro Scan per discutere del piano di salvataggio della Grecia. La stessa Grecia con il ministro, primo ministro Papandreou, che dice "abbiamo perso un amico". Beh, certo, perché Don Ministro Scan col Fondo Monetario Internazionale era atteso da incontri e colloqui molto molto importanti per parlare di cose molto molto più serie. Intanto Repubblica fa sapere che il terremoto al Fondo Monetario Internazionale per ora porta l'interim come direttore a Lipsky. Le dimissioni di Strauss-Kahn paiono sempre più vicine e ovviamente parte la lotta per la successione. Ci sono anche le borse in ansia, vedremo come reagiscono, perché insomma da una vicenda così drammaticamente personale, quella di uno stupro o presunto stupro, che però coinvolge un esponente, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, quindi un organismo internazionale importantissimo proprio in questo momento, tra l'altro delicato, in cui si discuteva della Grecia ma anche del Portogallo, delle situazioni di crisi internazionale, vedremo anche come le borse reagiranno oggi all'apertura in Europa. Per quel che riguarda la politica, ripeto, c'è pochissimo da dire, siamo in silenzio elettorale, fino alle 15 si vota per le amministrative. Tra l'altro voglio ricordare che Radio 24 poi seguirà ovviamente con lunghe dirette gli esiti del voto. Quello che si può dire è riguardo le affluenze, aumentano i votanti per quel che riguarda Milano e Torino alle comunali, ma il dato generale è che invece l'affluenza è in calo. La prima giornata delle amministrative con 13 milioni di italiani circa che sono chiamati al voto, ricordiamo che sono 1315 i sindaci da rinnovare, 11 i presidenti di provincia, l'affluenza in generale è in calo. Ripeto, l'unico dato in positivo come aumento di voti si registra per le comunali di Milano e Torino. Le urne tra l'altro sono aperte anche per oggi dalle 7 fino alle 15. Di politica però è interessante quello che la discussione aperta dal ministro dell'economia Tremonti, che ha detto il sud è il problema per la crescita in Italia. Oggi su questo tema economico si cimenta Giuliano Ferrara nel suo editoriale del Foglio dal titolo "Le Italie sono due, fingere il contrario ha un costo". Si chiede Giuliano Ferrara: il mezzogiorno è o non è la grande riserva per la creazione di ricchezza, visto che un nord bavarese oltre certi livelli non lo si può spremere? È vero quel che dice Tremonti quando afferma che potremmo crescere anche più dei tedeschi se riuscissimo a liberare in termini di energia e vitalità capitalistica quel che oggi è zavorra assistenziale ed economia malata? Vogliamo dare un'alternativa alla sanità come industria opacamente protetta, incentivata, un sistema sinistro per corrompere la politica e far star male la gente? E allora facciamo in modo che la prima defiscalizzazione decisa consenta al nord, all'Europa e al mondo di investire in Campania, in Puglia, in Sicilia, a condizioni radicalmente diverse da quelle del resto del paese. Con questi livelli di disoccupazione giovanile e di flusso migratorio potenziale, garantire il lavoro a un costo contenuto non dovrebbe essere difficile. Perché facciamo finta di essere un paese solo quando siamo due paesi diversi che non sono più in grado di sopportare le stesse regole? Insomma, così si chiede Giuliano Ferrara nell'editoriale dal titolo "Le Italie sono due, fingere il contrario ha un costo". E tra l'altro si dice d'accordo col ministro Tremonti anche il ministro Saverio Romano, ministro dell'agricoltura, uomo del sud, che però dice "sto con Tremonti, il sud ha colpe gravi, Tremonti ha ragione". Intervistato dal giornale da Paola Setti, dice ministro Romano: "da quando ho assunto la delega all'agricoltura, incontrando allevatori, agricoltori e pescatori in tutta Italia, ho visto da vicino che questo paese ha due facce". E, tra l'altro, Ferrara citava la disoccupazione giovanile nel suo editoriale del Foglio. E beh, di disoccupazione giovanile e dalla disoccupazione giovanile, da dati certo non incoraggianti che pubblica oggi il Sole 24 Ore, partiremo dopo il traffico. In primo piano. Giovani disoccupati, la metà cerca lavoro da oltre un anno. Questo è il titolo che troviamo inquietante in prima pagina del Sole 24 Ore, edizione del lunedì, poi approfondito a pagina 8 da Francesca Barbieri. Tra i giovani vince l'inattività, vale a dire quanti sono i giovani inattivi. Questo secondo un'elaborazione del centro studi Data Giovani per il Sole 24 Ore. E beh, sono un esercito di 500.000 di persone, in prevalenza sono uomini, diplomati, residenti al sud. Ecco i disoccupati con meno di 35 anni. Sono persone che da oltre 12 mesi non cambiano status, cercano lavoro ma non lo trovano. Si arriva a punte del 57% in Basilicata, del 55% in Campania e in Sicilia. Anche se, fanno sapere i responsabili della ricerca, non va molto meglio tra gli under 35 residenti al nord-ovest, in particolare in Lombardia, dove quelli senza lavoro da più di un anno sono il 37% dei disoccupati. In assoluto però pare la Toscana, la regione del nord, dagli indici più preoccupanti. E insomma, tra i giovani vince l'inattività, un disoccupato under 35 su 2 è senza impiego da più di 12 mesi. Questi dati non confortanti oggi sul Sole 24 Ore. Il Sole oggi, tra l'altro, si concentra sul fisco con due notizie che volevo segnalare. La prima è questa, è l'apertura del Sole: fisco, riscossione sotto accusa. Ricordate la protesta di piazza dei contribuenti sardi contro Equitalia la scorsa settimana? Beh, pare che la riscossione finisce sul banco degli imputati e si allarga l'area del malcontento. Tra i motivi principali, il ricorso alle misure cautelari per blindare il debito nei confronti del fisco, vale a dire le ipoteche, i pignoramenti, il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, strumenti di fronte ai quali, fa sapere il Sole, i cittadini possono davvero poco o nulla, perché spesso vengono fatti senza un preavviso. E tra l'altro, e qui si concentra pagina 3 del Sole 24 Ore, dal 1 luglio che cosa parte? Entrerà in vigore una nuova norma sugli accertamenti esecutivi, con la riscossione che subirà di fatto un'accelerazione senza passare più per la cartella. Questo a dire che il clima tra fisco e contribuenti rischia di intesirsi ancora di più. Volete un altro dato insieme a quello della disoccupazione giovanile, oggi pubblicato da Sole a pagina 5, che certo non fa ben pensare per quel che riguarda la situazione di crisi, la situazione economica degli italiani? Sono le bollette e le rate non pagate, che valgono il 2% del PIL. Chiara Bussi racconta di numeri da capogiro: 31 miliardi di euro, vale a dire il 2% del PIL nazionale solo per il 2010. A tanto ammontano le rate e le bollette non pagate dagli italiani, con un picco del 5% della ricchezza prodotta, per quel che riguarda le rate non pagate, in Sicilia. Sono i dati dell'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero Crediti. Quali sono le bollette non pagate, a testimonianza della difficoltà delle famiglie italiane ad arrivare a fine mese e del potere d'acquisto, insomma, che si assottiglia sempre più? Sono in genere quelle di luce, gas, telefonia, servizi ADSL, ma una quota del 38% si riferisce invece ai finanziamenti a rate, carte revolving e mutui. Mentre si affaccia una nuova frontiera, quella delle multe o le tasse sui rifiuti non pagate alla pubblica amministrazione, il 5,8%. E c'è anche una grafica di tutta l'Italia, regione per regione, quali sono la mappa degli impegni dimenticati, li trovate sul Sole a pagina 5. Insomma, italiani che non pagano, che pagano sempre meno le tasse, le bollette. Ci sono vari articoli interessanti di cronaca internazionale. La prima riguarda Tripoli, con un interessante articolo sul Corriere della Sera secondo il quale Gheddafi preparerebbe un'uscita di scena senza umiliazioni, cioè un Muammar Gheddafi, sempre che sia vivo, non si capisce ancora bene, che secondo alcuni uomini a lui vicini, che hanno parlato al Guardian, avrebbe un progetto di farsi da parte per consentire alle nuove istituzioni di crescere e sostituire il suo sistema di potere. Cioè fare una sorta di mossa in cui dice: ok, sono disposto a mettermi da parte in modo da poter comunque vivere i propri giorni fino alla fine della vita in maniera tranquilla. Chissà se sarà così. Oggi la Corte Penale Internazionale col procuratore generale depositerà una richiesta in cui probabilmente lo si vuole accusare di crimini contro l'umanità, in cui probabilmente se ne richiede l'arresto. Staremo a vedere, di questo parleremo anche con il giudice italiano Cuno Tarfusser, che è nella Corte Penale Internazionale, è stato già nostro ospite, alle 8:20 sarà nostro ospite nell'intervista per cercare di spiegarci che succede dunque, visto che sarà uno dei giudici che si dovrà occupare di questa richiesta che oggi il procuratore generale Ocampo farà alla Corte Penale Internazionale. Che dire in chiusura, c'è molto anche di cronaca, trovate, di questa vicenda davvero incredibile di questo sacerdote che è stato arrestato a Genova con uno scandalo che si allarga, tra l'altro Don Riccardo Seppia, le cui intercettazioni sono veramente da brividi. Si procurava, questa è l'accusa, cocaina che scambiava con giovani minorenni in cambio di prestazioni sessuali. Il Secolo XIX ci dedica due pagine con un intervento anche in prima pagina di Don Andrea Gallo. Il prete è stato subito rimosso, il cardinal Bagnasco in persona è venuto a chiedere scusa alla comunità. Pare che le intercettazioni, insomma, ci sono stralci un po' ovunque, sono davvero clamorose, insomma, lampanti, tanto che i genitori dei ragazzini coinvolti, pare alla terza, quarta intercettazione, hanno detto alla polizia: smettete questo calvario, non fateci più sentire altro, spegnete questo dannato registratore. Ovviamente c'è la comunità che sempre si spacca in due. Però insomma, in questo caso, ripeto, le intercettazioni paiono abbastanza emblematiche. E, che dire, voglio chiudere con lo sport, sì, con la Gazzetta. Il titolo della Gazzetta oggi è Napoli uguale Champions. Insomma, sono gli ultimi verdetti, i verdetti che contano, quello dello scudetto soprattutto è già arrivato, però ci sono anche i verdetti della Serie B con le lacrime di tutti i giocatori della Sampdoria, finita in Serie B insieme a Brescia e Bari, mentre il Napoli, che ottiene la Champions con il pari ieri con l'Inter, ormai rimane solo l'ultima casella, l'Udinese dovrebbe essere la quarta in Champions League nell'ultima giornata di domenica prossima. Napoli uguale Champions, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Guardo il nostro Carmelo Lauricella, che oggi è in regia, che mi fa il segnale che bisogna chiudere. Allora do la linea al giornale radio e noi ci ritroviamo dopo alle 8:20.